Radio 24 Reportage. Turismo d'ammasso di Simone Spezia, Adriana Fracchia, Alessandra Schepisi. In un sondaggio diffuso una settimana fa, alla domanda su quale fosse la loro maggiore preoccupazione, il loro maggiore problema, la metà degli abitanti di Barcellona consultati ha indicato il turismo di massa. Il comportamento dei visitatori più giovani, l'incremento esplosivo dei prezzi delle abitazioni, l'impossibilità o la difficoltà a muoversi in alcune zone della città in determinati periodi dell'anno o della settimana, stanno diventando un problema tale che il piano del comune prevede, tra l'altro, lo stop a nuovi hotel o appartamenti per turisti nel centro città. Secondo l'efficace espressione utilizzata da Augusti Colom, che si occupa del tema per la municipalità, Barcellona potrebbe morire di successo. Uomini e donne appartenenti a tutte le categorie sociali e a tutte le razze del mondo si affacciano alle frontiere del nostro paese. Il problema per la capitale catalana, come per le nostre città, è trovare un giusto equilibrio, cercare di preservare decoro, vivibilità e introiti. Numero chiuso, flussi controllati. Tutte le ipotesi al momento sono aperte per i grandi poli italiani di attrazione di visitatori come Roma, Firenze o Venezia, tanto che nel mese che si apre oggi si dovrebbe svolgere un incontro tra i rappresentanti di questi luoghi e il governo per provare a definire una strategia. Mascherato da me stesso, ti ho invitata a festeggiare. Oggi assunto te, Venezia, come fossi il mare. Pensate alla città lagunare. 10 milioni e mezzo all'anno i turisti che pernottano, ai quali si aggiungono 15 milioni di mordi e fuggi. Fanno 70.000 al giorno in media su un centro storico di 8 km quadrati, Murano e Burano escluse. Ma è una media. In certi fine settimana la popolazione veneziana triplica o quadruplica e non se la gode nessuno, non i visitatori e tantomeno i cittadini. La Giunta prova a prendere provvedimenti. Paola Mar, assessore al turismo, spiega che in un pacchetto espressamente dedicato al settore sono state varate una serie di norme. Abbiamo preso dei provvedimenti che riguardano l'installazione di contapersone, la diversificazione dei punti di approdo, dei lancioni che sono quelli che durante la stagione estiva ci portano il maggior numero di turisti escursionisti, che fondamentalmente sono quello che intasano la città. Poi abbiamo provveduto ad assumere 100 vigili stagionali. Questo per quanto riguarda il quadro generale. Ci sono alcune città, come penso per esempio a Dubrovnik, che stanno ipotizzando un vero e proprio numero chiuso per quanto riguarda il centro storico. È pensabile qualcosa di questo genere a Venezia oppure no? No, allora le dico, Dubrovnik, conosco la proposta di Dubrovnik, è limitata proprio a fazzoletto di terra, diciamo, non è così estesa come la nostra città. Noi non vogliamo arrivare al numero chiuso, noi vogliamo anche attraverso il bollettino del turismo fare in modo che le persone che vengono in città sappiano che giornata può essere, perché ci sono giornate di massimo carico dove ovviamente potresti avere dei disagi e delle giornate in cui puoi venire tranquillamente e godere di quella che è la nostra città nella sua interezza. Farò quello che vuoi, un pezzo intercambiabile. Venezia, tra l'altro, è alle prese con l'ulteriore problema del progressivo svuotamento del centro storico, collegato anche all'invasione turistica e alla difficoltà di vivere la città. Al momento il ticket d'ingresso comunque sembra escluso. Il tema, chiarisce al microfono di Adriana Fracchia e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, non è solo e forse non tanto nella quantità di turisti, ma nella qualità. Ci sono quelli che pernottano e quelli che non lo fanno, quelli che rimangono per visitarla e quelli che ci passano giusto per dire di esserci stati. Il deterrente economico, secondo me, è quello più legittimo, comprensibile anche dai visitatori ed efficace. L'anno scorso abbiamo addirittura raddoppiato il costo del ticket dei bus turistici con permanenza giornaliera, cioè quelli legati al turismo mordi e fuggi. E questo ha portato ad una diminuzione dei torpedoni turistici nella città e a un aumento degli incassi per il bilancio del comune. Si può usare la leva economica per scoraggiare soprattutto un turismo appunto giornaliero, mordi e fuggi, che consuma molto la città, produce rifiuti, utilizza i servizi pubblici, ma lascia poco. Ovviamente non è che c'è una ricetta buona per tutte le città. Ogni sindaco cerca di ingegnarsi con degli strumenti che siano adatti alla propria città. Se ci fossero norme statali più efficaci, potremmo fare ancora meglio. Qualche esempio l'abbiamo avuto, citavo quello dei Rishaw, oppure la battaglia che noi abbiamo fatto contro i fast food. Questa invasione ha letteralmente minacciato l'anima e l'identità del nostro centro storico. E oggi a Firenze non si possono più aprire fast food nel centro. Noi dobbiamo anche preservare l'identità dei centri storici, fatta di botteghe storiche, botteghe artigiane, ristorazione legata alla nostra tradizione. Anche quello è patrimonio culturale. Nord, sud, ovest, est, Roma è così grande che di notte ti prende, ti inghiotte. Fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente. Ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende. Ti usa, se serve, ti premia, ti perde. Chi parte, chi scende, chi bleffa, scala. Fredda come l'Artico Sahara dentro le coperte. E poi c'è Roma. Roma che nei primi 5 mesi del 2017 ha contato 5,4 milioni di arrivi e 13 milioni e mezzo di presenze. Rispetto allo scorso anno, gli arrivi di viaggiatori in città sono aumentati di oltre il 3%. Prima ancora di pensare al numero chiuso o a ipotesi diverse come il flusso controllato, per esempio per Fontan di Trevi, la capitale cerca innanzitutto di lottare contro il degrado. Gli obiettivi sono ripulire le zone di maggiore attrazione turistica, varando un'ordinanza per vietare bazar e minimarket nel centro storico, provvedere nuovamente a rimuovere i centurioni da davanti al Colosseo, evitare episodi di bagni nelle fontane storiche. Su questo fronte una specifica ordinanza della sindaca prevede multe anche piuttosto elevate. Così Raggi, illustrando i primi risultati del provvedimento. Abbiamo già fatto in neanche due settimane circa 30 multe, la maggior parte sono da 80 euro, quindi diciamo andavano a sanzionare comportamenti comunque vietati, ma abbastanza, ecco, quelli soft, quindi diciamo i piedi. Invece poche sono da, mi pare, 400 euro, cioè ci sono stati, dall'ordinanza in poi ci sono stati pochissimi bagni, però sono stati tutti ampiamente sanzionati. Mi sembra che i dati siano peraltro anche in diminuzione, diciamo la frequenza dei bagni. E girando anche in centro ho visto come i vigili siano molto attenti a evitare questo genere di fenomeni. Ombre dei muri, muri dei maine, donde ne vengi, dove le canne, densi tu du vali, na semo strani, e annetana punto, cotelo agu. Ma i problemi di eccesso di flussi non si registrano solamente nelle città d'arte. La crescita esponenziale del turismo ha spinto alla riflessione anche i vertici del Parco delle Cinque Terre, in Liguria, che hanno varato una sperimentazione tecnologica interessante. Vittorio Alessandro ne è il presidente. Lei potrà acquistare il biglietto online, consentirà a noi di conoscere la previsione dei flussi. Quindi questa vendita online del biglietto, che è un biglietto del treno ma è anche un biglietto di accesso al parco, sarà poi accompagnata dall'applicazione, che potrà scaricarsi anche con anticipo, ma nel momento in cui sarà acquistata la carta online ci dà la possibilità di offrire informazioni sullo stato dei sentieri. Quindi sullo smartphone lei riceverà i classici segnali verde, arancione, rosso, che in tempo reale potranno dire qual è la capacità, la possibilità di fruizione in quel momento del sentiero. Possiamo in questo modo noi indurre i nostri visitatori a scegliere un momento diverso, ad attendere, a modificare l'itinerario. Quello che invece ha pagato di più è la capacità invece di presidio che volontari, assistenti del CAI, guardie forestali dei carabinieri hanno predisposto insieme a noi, che ha consentito per l'appunto di oltre che presidiare, parlare con le persone e cercare di dirigerle nel modo migliore attraverso i sentieri. Il fine settimana del 2 giugno è stato il grande test di questo meccanismo, che dunque mette insieme l'elemento tecnologico e l'elemento umano, e il test è andato bene. Sì, ha funzionato, peraltro con un numero di presenze che è comunque un elemento sul quale dobbiamo riflettere. Parliamo di un 30% in più di presenze rispetto allo scorso anno. Dobbiamo, credo, renderci conto di quanto questo tipo di impegno sia utile non soltanto nelle Cinque Terre, che certo sono piccole, fragili e abitate, ma è una opportunità di riflessione, di impegno, credo, per molti spazi dedicati al turismo del nostro paese. La questione si pone anche per molti altri luoghi, a partire da Capri, dove ogni anno il sindaco pensa a ridurre e chiede di ridurre gli arrivi di traghetti, uscendone regolarmente sconfitto. Flussi controllati, monitoraggio, numero chiuso, innalzamenti di tasse, imposte di soggiorno, biglietti dei trasporti pubblici più costosi, ma anche, nell'idea del Ministero, la promozione di mete alternative. Un paradosso, quello che con una frase fatta veniva chiamato il petrolio d'Italia, il turismo oggi scorre forse troppo impetuoso. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.